America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. US President-elect Donald Trump has tapped a Republican National Committee Chairman Reince Priebus as his chief of staff. Cominciamo con un paio di notizie perché il presidente eletto Donald Trump ha preso un paio di decisioni, ha nominato Reince Priebus, il presidente del Partito Repubblicano, come suo capo di gabinetto. Questa è una decisione importante perché Priebus è molto vicino a Paul Ryan, il presidente della Camera, e dunque è un gesto distensivo nei confronti del Parlamento, nei confronti del dialogo. Priebus è un moderato. Il suo concorrente era Steve Bannon. Steve Bannon era il capo della campagna di Donald Trump, ma proveniva da un giornale, era il presidente di questo gruppo editoriale chiamato Breitbart News, di estrema destra, molto aggressivo, molto provocatorio. Quindi per Donald Trump è stato molto importante averlo in una campagna difficile come quella che si è combattuta, ma certamente non sarebbe stato un personaggio adatto per un ruolo istituzionale come quello del capo dello staff della Casa Bianca. Dunque questa è una decisione che è stata accolta molto bene a Washington, ma la cosa interessante è che ieri sera ha anche concesso un'intervista alla CBS, la sua prima intervista televisiva. Trump è apparso molto rilassato, molto tra virgolette presidenziale, ha cercato il dialogo, ha elogiato sia il presidente Barack Obama che Hillary Clinton, ha detto che ormai la corsa è finita e che come messaggio di fondo, alcune delle retoriche elettorali ovviamente dovranno poi trovare dei giusti compromessi in congresso, ma è deciso a restituire la sua grandezza all'America. Ci sono un paio di temi interessanti, per esempio ha parlato del muro con il Messico, ha detto che sì, questo muro lui lo costruirà, non sarà necessariamente un muro completo, sa che i repubblicani in congresso propongono anche di costruire dei reticolati e dice sì, per alcuni tratti si possono fare dei reticolati, dunque sono aperto a questo compromesso, ma ci sarà sicuramente anche una parte di muro per la deportazione. Ecco, la deportazione dei latinoamericani, e lui ha parlato di 2-3 milioni di persone che secondo lui sono dei criminali, trafficanti di droga, persone che fanno parte delle gang, ed è su quello, dice, che si vorrà concentrare. Ecco, 2-3 milioni è un numero molto inferiore ai 12 che lui a un certo punto voleva deportare, cioè tutti gli immigrati illegali. Però anche 2-3 milioni è un numero enorme, un numero altissimo. È difficile pensare che ci siano 2-3 milioni di gang leader in America. Dunque anche su questo punto potrebbe essere poi costretto al compromesso. Ma sentiamo una delle battute nell'intervista con Leslie Slal. It's so enormous, it's so amazing. Kind of just took your breath away. Couldn't talk. A little bit, and I think I realized that this is a whole different life for me now. Ci sono un paio di altre notizie interessanti che riguardano Trump. Ha nominato Myron Ebell come capo della squadra di transizione per il Dipartimento dell'Ambiente. Ecco, questa non è una buona notizia per gli ambientalisti, perché Ebell è considerato un nemico delle riforme ambientali in quanto sostiene che il riscaldamento atmosferico non esiste, e lo stesso Trump ha confermato che nei primi 100 giorni della sua amministrazione vuole trovare il modo per eliminare il cosiddetto COP21, che è l'accordo che si era raggiunto nel dicembre dell'anno scorso a Parigi, un accordo rivoluzionario dopo 20 anni di negoziato. Ecco, io non so come andrà a finire questa storia sull'ambiente, anche perché in questo momento a Marrakesh sono in corso degli incontri importanti per il COP22, per cercare di dare contenuto a COP21 e quindi per cercare di trovare delle regole che per le aziende possano essere poi vincolanti. Non entro nel dettaglio tecnico, perché secondo alcuni ci vorranno 4 anni per smantellare l'accordo, secondo altri ne basta uno. Però la verità è che sull'ambiente c'è una partita molto dura. Lo stesso sul commercio, è stato Barack Obama stesso che ha dovuto rinunciare al TPP. Tra l'altro, sul piano della cronaca, Barack Obama sta partendo per l'Europa, arriverà domani mattina in Grecia, poi andrà in Germania. C'è, come dire, un contenuto simbolico nella scelta di questi due paesi per congedarsi dall'alleato europeo, la Grecia domani mattina, la Germania a partire da mercoledì. E sul piano simbolico, Grecia e Germania sono rispettivamente la vittima e la guzzino di una dinamica economica europea che nel post-crisi ha puntato tutto sull'austerità invece che su aggressive politiche monetarie e fiscali, come faceva e come chiedeva di fare l'America di Obama. Ecco, resterà forse questo il più grande cruccio per l'amministrazione democratica uscente. Cosa sarebbe successo se la Germania avesse, come dire, accettato di fare politiche monetarie espansive fin da subito? La risposta naturalmente non l'avremo. La tesi è che l'Europa sarebbe cresciuta di più, i populismi sarebbero stati meno forti e soprattutto l'America avrebbe potuto crescere di più per questo traino europeo che non c'è stato. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.